America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. Stay hungry, stay foolish. And I have always wished that for myself. And now, as you graduate to begin anew, I wish that for you. Stay hungry, stay foolish. Tutti i negozi della Apple, gli Apple Stores in America, intorno al mondo, si fermeranno per un'ora oggi, nella giornata di oggi, per consentire ai dipendenti e naturalmente ai clienti, a tutti coloro che si trovano nel negozio, di partecipare alla commemorazione in onore di Steve Jobs. Ecco, in questa, diciamo, celebrazione, che cosa è successo? È successo che ieri ci sono stati i risultati di Apple Computer e non sono andati così bene. Dunque, improvvisamente il mercato ha risvegliato quel timore, quella paura, quel sospetto che forse con la dipartita del grande fondatore l'azienda non potesse più essere in grado di raggiungere i risultati straordinari che ha sempre raggiunto, e alla luce dei risultati trimestrali di ieri ci si è accorti che le vendite sono state di 28,8 miliardi di dollari. Ci si aspettava, gli analisti avevano stimato che queste vendite dovevano essere invece di 29,7 miliardi di dollari. Non solo, il dividendo per azione è stato di $7.05 per azione, le stime erano per $7.38, quindi di nuovo leggermente al di sotto delle aspettative. La ragione per questa diminuzione di vendita è da ricercarsi in una diminuzione delle vendite dell'iPhone. Cosa ha fatto il mercato? Beh, nel dopo mercato una punizione durissima, il titolo è caduto del 7%. Ma veniamo al punto: perché le vendite di iPhone sono diminuite? Ma secondo me sono diminuite semplicemente per il fatto che i consumatori sapevano che c'era in arrivo il nuovo iPhone 4S e dunque invece di comprarlo prima hanno aspettato, tra l'altro doveva esserci già l'iPhone 5, quindi c'erano aspettative ancora più elevate. E la verità è che da un punto di vista di mercato ci sono già 4 milioni di ordini nel primo weekend di vendite di questo iPhone 4S, ci sono state richieste per 4 milioni di unità. Dunque io ho come la sensazione che forse il primo trimestre del nuovo anno fiscale non sarà poi così negativo, ma il mercato reagisce e reagisce male quando c'è una qualche sorpresa, e ieri in qualche modo c'è stata. Questo modello è straordinario, vi faccio sentire, credo che non l'abbia sentita ancora nessuno in Italia per radio e forse neanche per televisione, un dialogo tra un utente e questo telefonino che è dotato di intelligenza artificiale e che ha una persona dentro la memoria di questo telefonino che si chiama Siri e che risponde, vi risponde. Voi dite: Siri, per favore metti in calendario che devo comprare dei fiori, e Siri scrive, dice: sì, certo, lo metto, e risponde con la voce. Non ci credete? Ecco qui, sentite. Are you Siri? That's me. What is the meaning of life? Try and be nice to people, avoid eating fat, read a good book every now and then, get some walking in, and try to live together in peace and harmony with people of all creeds and nations. Ecco, avete sentito, e questo lo potete trovare su internet, qual è il colloquio tra l'utente di questo telefonino e la persona che gli parla, questa voce femminile che si chiama Siri. E dunque l'utente la provoca, Siri, dice: ma tu chi sei? Sei forse Siri? E lei dice: sì, sì, sono io. Poi la provoca con una domanda non facile per un telefonino dotato di intelligenza artificiale. Dice: Siri, qual è il significato della vita? E Siri risponde: cercare di essere carini con gli altri, evitare di mangiare troppi grassi, leggere un buon libro di tanto in tanto, fare due passi e cercare di vivere in pace ed armonia con i popoli di ogni razza e nazione. Beh, devo dire, per essere un messaggio sul significato della vita che ti viene restituito in pochi secondi da un telefonino con intelligenza artificiale, beh, non è niente male. E infatti a un certo punto l'utente dice a Siri, che come avete sentito ha questa voce molto soave, molto bella, dice: Siri, ti amo. E Siri subito risponde con un tono un po' vezzoso, dice: oh, stop it, come dire, ma smettila, cosa dici? Siri, I love you. Oh, stop. Bene, abbiamo parlato di Apple e di profitti trimestrali. In effetti siamo nel mezzo della stagione delle trimestrali e ieri è toccato anche alle banche americane, ad alcune banche americane, dare dei risultati. Devo dire, sono stati dei risultati piuttosto importanti che hanno fatto notizia. Intanto Bank of America, pochi mesi fa, sembrava destinata al fallimento, lo ricorderete, e ieri invece ha comunicato profitti trimestrali di 6,23 miliardi di dollari, quindi una cifra che ha colto tutti un po' di sorpresa. Invece Goldman Sachs, che da sempre è la più solida, la più profittevole fra le grandi banche americane, ha registrato perdite per 428 milioni di dollari. Non sono perdite forti, però sono delle perdite al di sopra delle attese. C'è stata anche un'altra notizia, un cambio al vertice per il settore. Lo scettro di Banca Regina in America per depositi e patrimonio è passato da Bank of America a JP Morgan Chase. Vi dicevo, su patrimonio e totale depositi, il patrimonio totale di Bank of America, per darvi un'idea di nuovo delle proporzioni, è pari a 2.220 miliardi di dollari. Quello di JP Morgan Chase invece è di 2.290 miliardi di dollari. Stiamo parlando di cifre ovviamente enormi, incredibili per quelle che sono le nostre dimensioni. Quindi c'è una differenza di 70 miliardi di dollari a vantaggio di JP Morgan Chase. Per i depositi uguale, 1.040 miliardi di dollari per Bank of America in depositi e 1.100 miliardi di dollari per JP Morgan Chase, quindi 60 miliardi di dollari in più. Questi risultati possono essere in qualche modo fuorvianti, perché per esempio Bank of America in realtà ha fatto questi profitti perché ha venduto una partecipazione per oltre 3 miliardi di dollari in una banca cinese, ha cambiato alcune regole contabili. Insomma, ci sono un po' di elementi che non consentono di dirci che questo è un miglioramento strutturale. Ci sono anche alcune rivelazioni sempre su Bank of America. Per esempio, in portafoglio ha soltanto 485 milioni di dollari sul rischio Grecia, però è esposta per 10 miliardi di dollari, quindi una cifra importante, sul debito italiano e su quello spagnolo. E una curiosità: Goldman Sachs, che vi dicevo ha perso nel terzo trimestre, ha appena leggermente diminuito gli stanziamenti per i bonus. Sapete a quanto ammontano? A 10 miliardi di dollari, anche loro, che saranno distribuiti fra i 30.000 dipendenti, però la gran parte andrà al top di questi dipendenti, e cioè ai banchieri. La stessa cifra, 10 miliardi di dollari, dell'esposizione congiunta di Bank of America su Italia e Spagna. Ma dico io, non sarebbe meglio magari conferirli a Capitale? Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter, 24 America, scriveteci su Facebook, ed eccoci alla canzone del giorno. Dopo aver annunciato il loro scioglimento appena un mese fa, i REM hanno in programma l'uscita di una compilation dal titolo Part Lies, Part Heart, Part Truth, Part Garbage. Dunque un po' bugie, un po' cuore, un po' verità e un po' spazzatura. Ognuno sfrutta il vantaggio del proprio patrimonio di canzoni come e dove può. La collezione è dall'82 al 2011. Ecco dei REM, We All Go Back to Where We Belong. I can taste the ocean on your skin. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.